Allora, cominciamo con la prima intervista con Alex. Alex, che cos'è Neurogreen? È uno stato mentale di fronte al catastrofismo avanzante, è uno stato sociale di connessione tra varie forme di azione diretta e riflessione sul disastro ambientale cocente e il buscismo dilagante. Comunque è un party, ho la mente ultrasoffice da alcol e THC al massimo. Neurogreen è anche questo, un momento di alchimia. Speriamo di unire menti e corpi in un progetto comune che spacchi il movimento in una direzione strategicamente efficace. C'è vita dopo capitalismo? Ma guarda, secondo me no, alla fine. Cioè, il nostro party è Are Humans Over? Cioè, fino adesso Neurogreen tra le conclusioni che se va così, sì, cioè, il destino dell'umanità è segnato. Però Neurogreen, diversamente da anarchici e altri che ci hanno dato per spacciati, cerca l'ultimo sussulto di creatività e di umanità in un ambiente completamente trasformato nello spazio di un mese e in una maniera secondo me completamente nuova che i centri sociali ci mettono anni a sedimentare. Noi l'abbiamo fatto in un mese scarso. Adesso si è riempito il bar, ci sono altre due sale, speriamo che continui così, insomma. Grazie, ciao.